l'idea che poi quando è sotto pressione anche il più stronzo qualche cosa crea. Lanciare l'osso a un altro cane pure non morir di fame non è poi geniale. E poi trovare le parole, gli occhi e il vento, ma il momento non lo sai trovare. Se ti fermi un istante a pensare che poi non è difficile lasciarsi andare a un dettaglio per ritrovare sé mentre tutto si muove distratto e il cuore batte le ore. Se il tempo avesse avvisato che ora è il momento migliore. Non è da me, non è da te, non è nemmeno dentro nella tua armatura, nel tuo riflesso, nello specchio, nel tuo sguardo oppure nella tua paura. Lasciar volare le passioni al vento come gli aquiloni senza controllare. E poi trovare le parole, il tuo talento, ma il momento non lo sai trovare. Se ti fermi un istante a pensare che poi non è difficile lasciarsi andare a un dettaglio per ritrovare sé mentre tutto si muove distratto e il cuore batte. Avesse avvisato che ora è il momento migliore. Andare